FM. Buongiorno, buongiorno a tutti dalla voce di Mary Catalano. Anche questo martedì del 22 febbraio siamo insieme, qui su CRM Happy Radio, un nuovo appuntamento con me, con voi sino a mezzogiorno, con Déjà Vu e tutta la musica più bella di questo periodo, di prima, di dopo, anche di dopo. Sì, sì, vi annunceremo anche delle cose nuove che saranno in uscita a breve, forse. Va bene, ragazzi, come state? Spero stiate bene, nonostante questa giornata un po' pazzerella, perché poco fa pioveva, mi sono fatto una bella passeggiatina per arrivare fin qua sotto il mio bel ombrellino, pioveva di rotto e mi sono bagnata comunque nonostante avessi l'ombrello, però dai, adesso sembra quasi che ci sia il sole, aspettava me che uscivo di casa, vabbè, non fa niente, non fa niente, la pioggia mi ha rinfrescata, sono qui con voi e subito vi ricordo, vi rinfresco in questo senso con i numerini che sono a vostra disposizione per interagire con me, il 3355637251 è il numero per gli sms, dopodiché lo 0921423456 è sempre a vostra disposizione. Non dimentichiamoci internet, il web, ci seguite anche da lì al nostro sito internet www.crmpiradio.it e poi da non trascurare la nostra pagina Facebook, ok? Mi raccomando, interagite con me, sempre Mary Catalano ai microfoni con voi anche per questo martedì del 22 di febbraio. Benissimo, la mia voce è sempre KO, non fateci caso. Invece pensiamo alla voce di Vasco Rossi, che è tornato finalmente con un altro ennesimo nuovo singolo bellissimo. Fra l'altro ho visto il video, diciamo, una prima bozza del video, dove in primo luogo si vede proprio un Vasco Rossi pimpantissimo. Poi magari ci sarà un'altra versione di questa canzone nuova per Vasco Rossi, che si chiama È Già, che già gira nel web da un po' di giorni e la conosciamo già abbastanza bene, e gira appunto con il video di cui vi parlavo prima, dove si nota un Vasco Rossi freschissimo e davvero simpatico. Da non perdere questo video, guardatelo su internet. E magari, come dicevo prima, ci sarà poi anche un'altra versione più là, vedremo, di questa, del video di questa canzone. E già, Vasco Rossi su CRM, bentrovati. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già, il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Che batte più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, con l'anima che si pente, metà e metà, con l'aria col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole, io sono ancora qua. Io sono ancora qua. Già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù. Più su, più giù, più su. Cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido. Con cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua. Eh già. Io sono ancora qua. Eh già, io sono ancora qua, anch'io, Vasco Rossi, Vasco Rossi col nuovo singolo Eh già. E siete sempre all'interno di Déjà Vu, qui su CRM Happy Radio, insieme a Mary Catalano. Da poco insieme a voi, nelle vostre case, nei vostri posti di lavoro, nelle vostre automobiline, dovunque voi siate, ci sono io insieme a voi, tranquilli, tranquilli, belli, rilassati, che torniamo fra pochissimo per continuare con la musica che anche voi ci segnalate al 335-56-37251. News. In diretta su CRM Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is Better Switch Up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Sunk in your bed, rock hot, up in your love shot. A CRM i Black Eyed Peas che sfornano singoli continuamente, devo dire, sempre sempre belli, sempre ballabilissimi e sempre richiestissimi. Questo è il nuovo per i Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, il singolo che abbiamo appena sentito. Siete insieme a Mary Catalano, ancora ben trovati a tutti voi che vi siete messi in sintonia soltanto da qualche istante. Siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Déjà Vu, insieme a me che vi accompagnerò sino a mezzogiorno se vorrete rimanere con me, con tutta la musica che possiamo offrirvi e con tutte le notizie e le curiosità particolari. E a proposito di notizie, dobbiamo fare delle smentite per quanto riguarda lo sport e in particolar modo lo stretching. Parliamo più nello specifico direttamente con i corridori in particolare, e sappiamo benissimo che dedicarsi all'attività fisica senza aver fatto prima un po' di stretching non mette a rischio, diciamo che tutto questo potrebbe non mettere metterci a rischio di lesioni, no? Così sappiamo. Però a quanto pare ci sono delle smentite in questo senso, nel senso che appunto sembrerebbe proprio che non è esattamente così. Questo lo hanno affermato degli studiosi di Washington, i quali hanno effettuato uno studio specifico sull'argomento che ha riguardato in modo particolare proprio i corridori, come dicevamo prima. Le conclusioni sono state evidenti: lo stretching non influisce più di tanto, praticamente anche se fai stretching prima di una bella corsetta non ti serve a prevenire gli infortuni, secondo questi esperti. E questo in particolar modo per quanto riguarda la corsa, i corridori. La preparazione fisica da effettuare prima di cimentarsi in uno sport è fondamentale, questo lo sappiamo tutti quanti, e d'altronde sono noti i benefici a cui lo stretching porta. Ad esempio, non possiamo dimenticare che lo stress si può combattere proprio con lo stretching, ma per quanto riguarda la pratica regolare prima della corsa non sembra che sia in grado di apportare i vantaggi sperati. I ricercatori statunitensi se ne sono accorti dividendo i soggetti in due gruppi. I componenti di uno di questi gruppi hanno praticato degli esercizi di allungamento prima di mettersi a correre, nello specifico per i polpacci, per i quadricipiti e per i tendini del ginocchio, e quelli dell'altro gruppo invece si sono astenuti dallo stretching. In questo modo si è potuto riscontrare che gli esercizi di stretching non svolgono una funzione di prevenzione nei confronti delle lesioni. Gli infortuni di questo tipo riguardano maggiormente chi è in sovrappeso e chi è stato soggetto ad una precedente lesione avvenuta nel corso degli ultimi 4 mesi. Non bisogna rinunciare all'attività fisica, la quale aiuta i muscoli a restare giovani. Probabilmente lo stretching non aiuta più di tanto, ma sicuramente gli esperti comunque dicono che chi l'ha sempre fatto è meglio che continui a farlo, perché l'interruzione brusca dello stretching può essere rischiosa. Per cui diciamo che comunque sia, anche se sembrerebbe secondo questo studio che lo stretching non serva prima della corsa, comunque sia noi facciamolo, prevenire è meglio che curare, questo è l'importante. Va bene, intanto andiamo ad ascoltare la prossima canzone, e arriva Neck, anche lui col nuovo singolo, si chiama Vulnerabile, il singolo appunto che sentiamo subito per voi. Adesso dai, parliamo ancora un po' di noi. Però è un pretesto e tu lo sai, per dare un senso ai vuoti tuoi. Stasera andiamo ancora avanti tra la noia ed i rimpianti inutili. Sembriamo fuochi spenti e per non perdersi nei venti siamo qui, così. Non hai scudi di parole, io non voglio farti male, ma sei troppo vulnerabile. E se provo anche a sparire, tu mi trovi. Non so come, sono un bersaglio mobile. Si sta facendo tardi ormai, allora dimmi cosa vuoi. Non c'è più niente tra di noi, ma non mi lasci andare mai. Andiamo ancora avanti per l'inerzia degli eventi e siamo qui, così. Quando un viaggio è sul finale non bisogna farsi male, ma sei troppo vulnerabile. E se provo anche a sparire, trovi, non so come, sono un bersaglio mobile. Ora vai, non dirmi che hai paura, trova la tua cura e capirai. Non hai scudi di parole, io non voglio farti male, ma sei Bersaglio mobile, vulnerabile il singolo che abbiamo sentito per quanto riguarda NEC qui a CRM quando mancano 15 minuti alle 11 e andiamo ad ascoltare la prossima canzone che riguarda Giusy Ferreri, partecipe anche lei al Festival di Sanremo di quest'anno, eh. È già passata la settimana in cui appunto si parlava e si guardava il Festival di Sanremo, il tempo scorre, scorre tutto, fra poco arriva anche Carnevale, prepariamoci adesso per questo evento annuale che è appunto la festa di Carnevale riproponiamo le maschere, andiamo a ballare, mascheriamoci perché lo spirito è proprio quello ed è più divertente, devo dire, perché ultimamente, negli ultimi anni, diciamo che questa cosa del travestimento è un po' andata a sfumare, nel senso che molti non si travestono neanche più, non fanno festa in maschera e insomma non è più il senso poi del Carnevale. Allora cominciamo a preparare il vestitino e travestiamoci come quando eravamo ragazzini, come quando appunto da bambini ci divertivamo da matti e non vedevamo l'ora insomma di indossare qualche costume particolare, strano, e per non farci riconoscere, per fare degli scherzetti, delle marachelle. Bello quel periodo, poi quando si è piccoli le cose sono sempre più belle, si apprezzano di più, si fanno con uno spirito diverso. Giusy Ferreri a CRM. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, e questo soffitto violando che non esiste più, io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica e mi sembra un organo che vibra per te e per me. E sono l'immensità del cielo per te. Sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, e questo soffitto violato non esiste più, io vedo il cielo sopra noi e che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica e mi sembra un organo che vibra per te e per me. E sulla difensità del cielo per te e per me. Stravolta sul finale questo grande singolo storico, Il cielo in una stanza, da Giusy Ferreri, l'ha presentato al Festival di Sanremo così, sicuramente molti di voi l'avranno visto. Ok, adesso piccola pausa e poi ritorniamo con il nuovo di Lady Gaga e poi vi ricordo c'è anche l'appuntamento con il 3-4-1, ovvero tre singoli per un solo artista, questa volta il Litfiba protagonista di quest'angolo con tre grandi successi. Tutto questo fra poco su CRM Radio. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause You were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H, I am. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Il nuovo singolo per Lady Gaga qui a CRM, Born This Way. E sicuramente ci saranno delle provocazioni per quanto riguarda il video per questa canzone che è ancora in lavorazione. Lady Gaga ha annunciato che nel video di Born This Way ci saranno porno star, transessuali, insomma chi più ne ha più ne metta. Ma al momento la clip comunque è ancora in lavorazione, non resta che attendere per vedere quale sarà il suo contributo in questo senso, a dare insomma sempre scambio, come suole fare sempre Lady Gaga. Benissimo, sempre sulla cresta dell'onda. Fra poco, come dicevamo prima, l'appuntamento con il 3-4-1 non mancherà. Nel frattempo andiamo a rispolverare qualche successo di alcuni anni fa e subito Natalie Benfields con questa canzone che a mio parere è davvero splendida, che voglio riproporvi questa mattina all'interno di Déjà Vu insieme a me, con voi sino a mezzogiorno. Si chiama Abuse Easily. Buon ascolto a tutti voi. My skin is like a map of where my heart has been, and I can hide the marks, but it's not a negative thing. So I let down my guard, drop my defenses down by my clothes. I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow. I bruise easily, so be gentle when you handle me. There's a mark you leave, like a love heart carved on a tree. know you're leaving them all over this heart of mine too. But if I never take this leap of faith, I'll never know. So I'm learning to fall with no safety net to cushion the blow. I bruise easily, so be gentle when you handle me. There is a mark you leave, like a love heart carved on a tree. I bruise easily, can scratch the surface without moving me. Underneath, I bruise easily. Heal you, anyone who can reach you, can love you, or leave you. CRM Happy Radio Deja Vu con Mary Catalano. J-Lo, ya tu sa, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world to get on the flow. Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale. I want the whole world to get on the flow, dale. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy 7-tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. We gon' be it on the floor. Una delle tante cose che potremmo ballare per questo carnevale del 2011 è proprio quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, ovvero la nuova canzone di Jennifer Lopez insieme a Pitbull con On The Floor, la canzone che stiamo ascoltando già da qualche giorno e che ormai è entrata nella nostra testolina, anche perché questo motivetto la la la la la ci ricorda un po' la lambada, no? Sì, lo sanno bene quelli un po' più vecchietti come me. Va bene ragazzi, siete sempre all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano. Ancora un'ora a nostra disposizione, c'è un sacco di musica da ascoltare. Fra poco i protagonisti per il 3-4-1, ovvero tre singoli per un solo artista. Questa volta i Litfiba protagonisti di questo spazio. Quindi non perdetevi gli appuntamenti con appunto la canzone più bella dei vari artisti. Tutto ad un soffio ascolteremo tre singoli dunque dei Litfiba anche questa mattina. Nel frattempo facciamo una piccolissima pausa. Intanto vi ricordo il 3355637251 per i vostri interventi, per i vostri messaggini. Poi non dimenticate che ci potete seguire anche su internet al www.crmepiradio.it. Allora vi aspetto fra pochissimo con Zucchero, anche sì, anche lui Zucchero, protagonista della scaletta musicale insieme a me. L'alba e granai filtra di qua dal monte, piano si accende, striscia e dà vita al cielo, scende e colora, vivida il fiume e il ponte. Oh, è tempo per noi di andare via, un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova. Un soffio caldo che va, un sogno caldo che va, sogni che a volte si infrangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono, ma quanti cani mordono il nostro cammino. Oh, ma i sogni, sai, non dormono mai. Un respiro d'aria buona, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia ritrova un soffio caldo di libertà. Oh, la libertà. Sotto un cielo d'aria nuova, apro gli occhi e sento di già, sento pace nell'aurora, un soffio caldo. Un sogno caldo, libertà. Un soffio caldo è il nuovo singolo di Zucchero, super richiesto al 335-56-37251. Siete sempre su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu insieme a Mary Catalano ai microfoni. Sempre raffreddata, eh? Quest'anno non mi lascia in pace questa influenza. Va, viene e non mi lascia. E penso che anche voi siete combinati un po' così, perché con questo tempo appunto un po' pazzerello che abbiamo qui in Sicilia è molto molto facile che succeda una cosa del genere. E vabbè, combattiamolo in qualche maniera anche attraverso la musica e ascoltiamoci il 3-4-1, protagonisti Litfiba con tre singoli in sequenza: Vivere il mio tempo, poi Il tempo di morire e ancora Spirito. Litfiba, Deja Vu e 3-4-1. 3-4-1. Sulle onde, sulla vita come un'altalena, e parlare pure con i pesci come una sirena. Ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene dentro. Gioco un gioco d'equilibrio, devo solo farci un po' la mano, perché stare nel mio tempo è viverlo da dentro. Sorrisi, ora, guarda me, l'aurora, quando i più bei frutti saranno di tutti. Ti farei volare sulle onde, sopra un mare che sempre è tempesta, perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro. Solo in te. Mi basta il tempo di morire, yeah. tue braccia così. Domani puoi dimenticare domani, ma adesso, adesso dimmi di sì. Yeah. Non dire no. Perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare. Amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare, amare. Estoy contento. solo ciò che so, solo ciò che so, è solo ciò che so, è solo ciò che so, è solo ciò che so, solo ciò che so, solo ciò che so, solo ciò che so, solo ciò che so, solo ciò che so, solo ciò che so, spirito libero, è solo ciò che so. Protagonisti Litfiba per quanto riguarda il 3-4-1 all'interno di Déjà Vu, tre singoli per questo grande duo appunto di Litfiba con tre canzoni, una più bella dell'altra. Adesso è arrivato il momento di dare spazio all'informazione, ci ritroviamo qua subito dopo, sempre Déjà Vu, sempre Mary Catalano e ancora mezz'ora in musica insieme. Io Déjà Vu con Mary Catalano. Hey now, take your pills and hey now, make your breakfast, hey now. Comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion. My imagination run away. I know. I know. Yari M, CRM con Averlin, il nuovo singolo anche per loro. Quando mancano 20 minuti alla fine di questo appuntamento insieme a Mary Catalano, appunto Deja Vu con voi ogni martedì e giovedì su CRM Happy Radio. Ci seguite dovunque, anche su Facebook, il nostro profilo Facebook e il nostro sito internet www.crmhappyradio, sempre a vostra disposizione. E a proposito di Facebook, pensate un po', una neonata chiamata proprio Facebook, ma come si fa? Si fa, non è una cosa strana. È successo ad una coppia non americana, non la solita coppia americana che ha voluto omaggiare il social network fra l'altro più famoso del mondo, ma l'appena arrivata è la figlia di due egiziani che hanno deciso di ringraziare il sito internet che ha avuto un ruolo importantissimo nella rivoluzione egiziana. A scegliere il nome è stata proprio la mamma, poco più che ventenne, dopo essersi consultata con la famiglia, gli amici e anche il marito, insomma, hanno deciso di chiamare questa bambina Facebook. È sicuramente una scelta radicale questa, e anche molto strana, perché sicuramente condizionerà la vita di questa bambina per il resto dei suoi giorni, visto che si chiama Facebook, no? È la prima bambina al mondo a chiamarsi così ed è proprio il primo nome. La notizia è stata riportata da un giornale famosissimo in Egitto, uno dei maggiori giornali egiziani, appunto. La piccola Facebook ha ricevuto molti regali, la sua famiglia con amici e vicini si è riunita attorno a lei per esprimere il loro sostegno alla rivoluzione che è cominciata sulla pagina blu. Insomma, una cosa davvero particolare, devo dire, che segnerà la vita, appunto, come dicevamo prima, di questa bambina che da grande si ritrova a chiamarsi Facebook, e chissà quante ne avrà dette per questo motivo, insomma, dai suoi coetanei, dai suoi amici, boh. Oramai è così, c'ha questo nome, se lo tiene, mi sa, a meno che non lo vorrà poi da grande cambiare, come succede spesso, si può fare, no? Benissimo, ancora musica, questo CRM, musica italiana con la di Malika Ayane, che sentiamo con Il Giorno in Più, sempre il 335-56-37251 a vostra disposizione per i vostri messaggi, e poi vi ricordo anche lo 0921-423-456, chiamateci pure. Sotto il ghiaccio lascio sopra il mondo, e c'è silenzio e buio, spazio in cui cadere. Giri la faccia al muro e non hai forza, non hai peso, non vuoi più sapere. E il sentimento è fuoco, il fiato colla e tiene insieme. Valigia aperta al cuore, e piace fretta addosso su una barca malandata, si attraversa il mare. Lascia andare, non tremare, lascia tutto adesso. Dimmi perché. Ma tutto il cielo non lo guardi mai. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Burning in the Skies, Linkin Park qui su CRM e fra poco anche Luciano.